non soltanto il materiale della vita quotidiana del luogo dove il treno sosta, ma anche il materiale raccolto dalla stazione di Bologna, vale a dire che il treno trasporta il suono della stazione di Bologna. E nel luogo dove si ferma, oltre agli avvenimenti che ci saranno, visivi, musicali, avvenimenti che avvengono sul treno e fuori dal treno, perché ogni stazione dà il suo contributo, cioè può capitare qualunque cosa in fondo, no? C'è la banda, il coro, qualunque cosa. Qualunque cosa, dal saltimbanco a un gruppo di motociclisti magari che scorazzano sui marciapiedi, tutte le cose saranno possibili, ma dico, la cosa più fondamentale è il fatto di aver raccolto la quotidianità del luogo. Ma dove vai se il cappello non ce l'hai? Io ce l'ho e si chiama Dolcito. Favolosa crociera lungo la costa. Ritorno alle ore 23. Con la Maria Vittoria, le più belle ed economiche crociere sul mare. Informazioni e biglietti presso le agenzie viaggio e l'ufficio informazioni su tutti i social. Io ti mando una sua cosa, motoboat Maria Vittoria, chiamate in Rinnison, Tiscan, Alpolti, Tiscan, Broken Down and Dog. Cappuccino! Ne manca uno. No, due! Proprio Ciamadino. Ciamadino, ricordati che dopo ti prendo il caffè con l'uovo. Cappuccino! Ne manca uno. No, due! Ciò che stiamo per sentire adesso è un esempio di quello che stava succedendo sul piazzale di una stazione, in questo caso quella di Porretta. mentre il treno stava fermo sul binario e continuava a trasmettere rumori. Di questa festa? Una cosa bellissima! È stata molto bella! Molto bella, sì! Non è finita! Chissà come sarà bella! Non è ancora finita! Radio Bologna! Allora che radio è? Radio Nostrana?